diceva immancabilmente mia madre ogni volta che veniva in tavola il formaggio, e mio padre diceva: come sei monotona, non fai che ripetere sempre le stesse cose. A mio padre piaceva la frutta molto matura, perciò quando a noi capitava qualche pera un po' guasta la davamo a lui. Mi date le vostre pere marce, begli asini siete, diceva con una gran risata che echeggiava per tutta la casa, e mangiava la pera in due bocconi. Le noci, diceva schiacciando le noci, fanno bene, eccitano la peristalsi. Anche tu sei monotono, gli diceva mia madre, anche tu ripeti sempre le stesse cose. Mio padre allora s'offendeva. Che asina, diceva, mi hai detto che son monotono? Una bella asina sei. Quanto alla politica, si facevano in casa nostra discussioni feroci che finivano con sfuriate, tovaglioli buttati all'aria e porte sbattute con tanta violenza da far rintronare la casa. Erano i primi anni del fascismo. Perché discutessero con tanta ferocia mio padre e i miei fratelli, non so spiegarmelo, dato che, come io penso, erano tutti contro il fascismo. L'ho chiesto ai miei fratelli in tempi recenti, ma nessuno me l'ha saputo chiarire. Pure ricordavano tutti quelle liti feroci. Mi sembra che mio fratello Mario, per spirito di contraddizione verso i miei genitori, difendesse Mussolini in qualche maniera. E questo, certo, mandava in bestia mio padre, il quale con mio fratello Mario aveva sempre discussioni su tutto, perché lo trovava sempre di un'opinione contraria alla sua. Di Turati mio padre diceva che era un ingenuo, e mia madre, che non trovava che l'ingenuità fosse una colpa, annuiva, sospirava e diceva: povero mio Filippetto. Venne una volta a quell'epoca Turati a casa nostra, essendo di passaggio a Torino, e lo ricordo grosso come un orso, con la barba grigia tagliata in tondo, nel nostro salotto. Lo vidi due volte, allora e più tardi, quando dovette scappare dall'Italia e abitò da noi nascosto per una settimana. Non so tuttavia ricordare una sola parola che disse quel giorno nel nostro salotto. Ricordo un gran vociare e un gran discutere. E basta. Mio padre tornava a casa sempre infuriato perché aveva incontrato per strada cortei di camicie nere, o perché aveva scoperto nelle sedute di facoltà nuovi fascisti fra i suoi conoscenti. Pagliacci, farabutti, pagliacciate, diceva sedendosi a tavola. Sbatteva il tovagliolo, sbatteva il piatto, sbatteva il bicchiere e soffiava per il disprezzo. Usava esprimere il suo pensiero per strada, a voce alta, con i suoi conoscenti che lo accompagnavano a casa, e quelli si guardavano attorno spaventati. Vigliacconi, negri, tuonava mio padre a casa, raccontando della paura di quei suoi conoscenti. E si divertiva, credo, a spaventarli, parlando ad alta voce per strada mentre era con loro. Un po' si divertiva e un po' non sapeva controllare il timbro della sua voce, che suonava sempre fortissimo, anche quando lui credeva di sussurrare. A proposito del timbro della sua voce, che non sapeva controllare, raccontavano Terni e mia madre che un giorno, in una cerimonia di professori, mentre erano tutti riuniti nelle sale dell'università, mia madre aveva chiesto sottovoce a mio padre il nome di uno che si trovava a pochi passi da loro. «Chi è?» aveva urlato mio padre fortissimo, così che tutti si erano voltati. «Chi è? Te lo dico io chi è! È un perfetto imbecille!» Mio padre non tollerava in genere le barzellette, quelle che raccontavamo noi e mia madre. Le barzellette si chiamavano in casa nostra scherzettini, e noi provavamo a raccontarne e a sentirne il più grande piacere. Ma mio padre s'arrabbiava. Tra gli scherzettini lui tollerava soltanto quelli antifascisti. E poi certi scherzettini della sua epoca, che sapevano lui e mia madre e che lui evocava a volte la sera con i Lopez, i quali del resto li conoscevano anche loro da tempo. Alcuni di quegli scherzettini a lui sembravano molto salaci, benché fossero, credo, innocentissimi. E quando noi eravamo presenti, voleva raccontarli sussurrando. La sua voce diventava allora un rumoroso ronzio, nel quale noi potevamo distinguere assai bene molte parole, fra cui la parola cocotte, che c'era sempre in quegli scherzettini ottocenteschi e che lui pronunciava, studiandosi di bisbigliarla, più forte delle altre e con una speciale malizia e piacere. Mio padre s'alzava sempre alle 4 del mattino. La sua prima preoccupazione al risveglio era andare a guardare se il mezzo rado era venuto bene. Il mezzorado era latte acido che lui aveva imparato a fare in Sardegna da certi pastori. Era semplicemente yogurt. Lo yogurt in quegli anni non era ancora di moda e non si trovava in vendita come adesso nelle latterie o nei bar. Mio padre era, nel prendere lo yogurt come in molte altre cose, un pioniere. A quel tempo non erano ancora di moda gli sport invernali e mio padre era forse a Torino l'unico a praticarli. Partiva, non appena cadeva un po' di neve, per Clavière la sera del sabato con gli sci sulle spalle. Allora non esistevano ancora né Sestriere né gli alberghi di Cervinia. Mio padre dormiva di solito in un rifugio sopra Clavière chiamato Capanna Mautino. Si tirava dietro a volte miei fratelli o certi suoi assistenti che avevano come lui la passione della montagna. Gli sci lui li chiamava gli ski. Aveva imparato ad andare in ski da giovane in un suo soggiorno in Norvegia. Tornando la domenica sera diceva sempre che però c'era una brutta neve. La neve per lui era sempre o troppo acquosa o troppo secca. Come il mezzorado, che non era mai come doveva essere e gli sembrava sempre o troppo acquoso o troppo denso. «Lidia, il mezzorado non è venuto!» tuonava per il corridoio. Il mezzorado era in cucina, dentro una zuppiera, coperto da un piatto e ravvolto in un vecchio scialle color salmone che apparteneva un tempo a mia madre. A volte non era venuto affatto e si doveva buttare via. Non era che una querugiola verde con qualche blocco solido di un bianco marmoreo. Il mezzorado era delicatissimo e bastava niente a far sì che non riuscisse. Bastava che lo scialle che lo ravviluppava fosse un po' scostato e lasciasse filtrare un po' d'aria. «Anche oggi non è venuto! Tutta colpa della tua Natalina!» tuonava mio padre dal corridoio a mia madre, che era ancora mezzo addormentata, e gli rispondeva dal letto con parole sconnesse. Quando andavamo in villeggiatura, dovevamo ricordarci di portar via la madre del mezzorado, che era una tazzina di mezzorado ben incartata e legata con uno spago. «Dov'è la madre? Avete preso la madre?» chiedeva mio padre in treno, rovistando nel sacco da montagna. «Non c'è! Qui non c'è!» gridava. E a volte la madre era stata davvero dimenticata e bisognava ricrearla dal nulla col lievito di birra. Mio padre faceva al mattino una doccia fredda. Lanciava sotto la sferza dell'acqua un urlo come un lungo ruggito. Poi si vestiva e trangugiava gran tazze di quel mezzorado gelido in cui versava molti cucchiai di zucchero. Usciva di casa, che le strade erano ancora buie e quasi deserte. Usciva nella nebbia, nel freddo di quelle albe di Torino, con in testa un basco largo che gli formava quasi una visiera sulla fronte e con un impermeabile lungo e largo pieno di tasche e di bottoni di cuoio. Con le mani dietro la schiena, la pipa, quel suo passo storto, una spalla più alta dell'altra. Per le strade non c'era ancora quasi nessuno, ma le poche persone che c'erano, lui riusciva a urtarle nel passare, camminando aggrondato a testa bassa. Non c'era a quell'ora nel suo laboratorio nessuno, forse soltanto Conti, suo inserviente, un ometto basso, tranquillo, sommesso, con il camice grigio, che voleva molto bene a mio padre e al quale lui voleva molto bene, e che veniva a volte a casa nostra quando c'era bisogno di aggiustare un armadio, di cambiare una valvola della luce o di legare i bauli. Conti, a forza di stare nel laboratorio, aveva imparato l'anatomia e quando c'erano gli esami suggeriva e mio padre s'arrabbiava. Ma poi a casa raccontava compiaciuto a mia madre che Conti sapeva l'anatomia meglio degli studenti. In laboratorio mio padre si infilava un camice grigio uguale a quello di Conti e andava urlando nei corridoi come usava urlare nel corridoio di casa. «Io son Don Carlos Tadrid e son studente in Madrid», cantava mia madre a piena voce, mentre si alzava e si spazzolava i capelli, ancora tutti inzuppati. Anche lei faceva, come mio padre, la doccia fredda. E avevano, lei e mio padre, certi guanti tutti spinosi, con i quali si strofinavano dopo la doccia per riscaldarsi. «Son gelata!» diceva mia madre, ma con gioia, perché amava molto l'acqua fredda. «Sono ancora tutta gelata! Che freddo che fa!» E andava, stretta nell'accappatoio, con in mano la tazza del caffè, a fare un giro per il giardino. I miei fratelli erano tutti a scuola e c'era in quel momento nella casa un po' di pace. Mia madre cantava e scrollava i capelli bagnati nell'aria del mattino. Poi andava a discorrere nella stanza da stiro con la Natalina e la Rina. La stanza da stiro si chiamava anche la stanza degli armadi. C'era la macchina da cucire e là soggiornava la Rina, cucendo a macchina. Questa Rina era una specie di sarta in casa, buona però soltanto per rivoltare i nostri cappotti e per mettere toppe ai calzoni. Vestiti non ne faceva. Quando non era da noi, era dai Lopez, se la palleggiavano, la Francis e mia madre. Era una donnetta piccola piccola, una specie di nana. Chiamava mia madre signora Maman e quando incontrava mio padre nel corridoio scappava come un topo perché lui non la poteva soffrire. «La Rina! Anche oggi c'è la Rina!» si infuriava mio padre. «Non la posso soffrire! È una pettegola! E poi non è buona di far niente!» «Ma la chiamano sempre anche i Lopez!» si giustificava mia madre. La Rina era di umore mutevole. Quando veniva da noi, dopo un periodo che non era venuta, si mostrava tutta gentile e si prodigava in mille lavori. Progettava di rifare tutti i nostri materassi e cuscini, di lavare le tende e di smacchiare i tappeti con i fondi di caffè, come aveva visto fare in casa della Francis. Si stufava presto, però. Si imbronciava, si stizziva con me e con Lucio, che le stavamo intorno perché prima ci aveva promesso passeggiate e caramelle. Lucio, il figlio piccolo della Francis, veniva quasi ogni giorno da noi a giocare. «Lasciatemi in pace, io debbo lavorare!» diceva la Rina immusonita, cucendo a macchina, e si litigava con la Natalina. «Quella malignazza Rina!» diceva mia madre le mattine che la Rina, senza aver avvertito, si asteneva dal comparire e non si sapeva dove si fosse cacciata, dato che nemmeno la Francis l'aveva vista. C'erano materassi e cuscini, per sua iniziativa, disfatti, fiocchi di lana ammucchiati nella stanza degli armadi e tappeti sui quali i fondi di caffè avevano lasciato gore giallastre. «Quella malignazza della Rina! Non la faccio venire mai più!» La Rina, dopo qualche settimana, tornava. Ilare, gentile, prodiga di iniziative e promesse. E mia madre dimenticava subito le sue colpe e si metteva nella stanza degli armadi a sentire le chiacchiere della Rina che cuciva a macchina, rapida, battendo il pedale col suo minuscolo piede da nana, calzato di una ciabattina di panno.